Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down. E buon pomeriggio a tutte e tutti, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolterà in replica. Siete all'ascolto di Poi You Hit Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Questa è la prima puntata della seconda stagione, una stagione che inizia oggi e che vogliamo portare avanti almeno fino all'estate. Poi capiamo anche se aumentare le frequenze di queste trasmissioni, che per adesso andranno in onda una volta al mese, ogni seconda domenica del mese, nonostante a onor del vero questa prima sia la terza domenica del mese, però andranno avanti ogni seconda domenica a partire da adesso, insomma fino a fine estate, poi vedremo anche se aumentare un po' la frequenza a seconda anche di come andrà la situazione in generale. Io sono Mario, mi state ascoltando sulle frequenze 1359 AM oppure sul vecchio sito wombat.noblogs.org oppure addirittura sul nuovo, meraviglioso, bellissimo sito di Radio Wombat, ancora in aggiornamento, ma da pochissimo online, ovvero radiowombat.net. Non sono da solo però quest'oggi, e non sarò da solo nemmeno per il resto delle puntate, perché una voce che chi ci ascolta ha già sentito più volte durante la scorsa stagione, in primavera, nel periodo del confinamento, e poi più ancora avanti, durante l'estate fino a luglio, è quella di Edoardo Olmi, che era stato nostro ospite e che invece sarà co-conduttore assieme a me per tutta questa stagione. Vecchio Edo, ci sei? Ci senti? Ciao Mario, ciao Wombat, ben ritrovati a tutti quanti, è un piacere riprendere insieme questo percorso e di poterlo condividere con voi il più a lungo possibile. Ciao a tutti. Grande Edo, siamo felicissimi anche noi, sono felicissimo anche io, ti sentiamo bene, o almeno io ti sento parecchio bene, spero anche gli ascoltatori. Dunque, era più facile durante il periodo di confinamento interagire con noi tramite un pad che avevamo messo sul sito e che in realtà abbiamo anche aggiornato mettendolo più chiaramente reperibile nella sezione contatti del sito nuovo, anche se il bottone che manda il link del pad per adesso non funziona. Direi che lo aggiorniamo anche più tardi, anche direttamente stasera. Intanto però, per chi volesse interagire con noi, do una dritta, ovvero basta andare su uno dei due siti, quello nuovo radiowombat.net o quello vecchio wombat.noblogs.org, nella barra di ricerca in alto a destra dovrebbe essere del sito, basta scrivere un paio di parole chiave, ovvero pad rise up. Linkerà un articolo, la barra di ricerca, che si intitola La radio al tempo del colera, e sotto in viola c'è scritto per interagire con Wombat durante le dirette e un link cliccabile che rimanderà all'indirizzo pad.raiseup.net/p/direttawombat.keep. Un po' complesso detto così, ma chi sarà così avventuroso da riuscire ad arrivare fino a lì potrà già da subito interagire facilissimamente con noi, oppure dalla prossima volta sarà ancora più facile, aggiustiamo il link del bottone, sì. Allora, questa trasmissione in onda ogni seconda domenica del mese, come dicevamo, vediamo anche se terremo il giorno oppure se lo sposteremo al sabato, stiamo riaggiornando un attimo il palinsesto, a ragione di un sacco di nuove trasmissioni che si stanno aggiungendo, con nostra grande felicità. Capiremo e ovviamente vi daremo conto in caso di spostamento, altrimenti l'appuntamento dopo quello di oggi è per la seconda domenica di dicembre. Dunque, vecchio Edo, ah no, un'altra cosa che dimenticavo, scusatemi tanto, è anche l'indirizzo mail al quale ci potete contattare, ce l'ho aperto qui davanti, è postawombat@insiberia.net, è un altro modo per scriverci e contattarci direttamente. Allora, la puntata di oggi, nonostante non sia la puntata che avevamo pensato, è sicuramente molto ricca. È sicuramente molto ricca perché, no, dicevo, non è quella che avevamo pensato. Avremmo voluto mandare due degli eventi che erano in programma in due spazi della nostra città, di Firenze. C'era infatti in programma la presentazione delle pieghe del corpo a cura del collettivo Leib di Bologna, che doveva essere organizzato dalla Palestra Popolare della Polveriera nel chiostro di Santa Pollonia. Un altro invece era il Tre Volte Marco Valdo di Massimo De Micco, che sarebbe dovuto svolgersi alla biblioteca Torregiani, due eventi che noi avremmo voluto seguire in diretta e rimandare con Radio Wombat in questa trasmissione, che almeno per adesso purtroppo non c'è possibile fare per ovvie ragioni, ma non vuol dire che non lo faremo, semplicemente recupereremo questi argomenti più avanti ed oggi, beh, comunque abbiamo un sacco di cose belle da farvi sentire, a cominciare da un'antologia che si intitola Congiunti, di cui adesso ci parlerà un po' meglio Edoardo, di cui sentiremo alcune letture di questa, un'altra lettura speciale, ma niente, vi voglio anticipare di questa seconda lettura, e più avanti anche un estratto, anzi due, dal Festival di Letteratura Sociale che si è svolto a settembre negli spazi di Santa Pollonia, nel chiostro sotto la Polveriera, e vorremmo mandare un estratto delle presentazioni di Chav fatta assieme a Alberto Prunetti e Vuming 4. Tutto questo fino alle 17, perché poi dalle 17 alle 19 le compagne e i compagni della bellissima Ciurma Pirata andranno in onda per fare un punto sulla situazione sanitaria, come già domenica scorsa era stato e come speriamo di poter continuare anche per le prossime domeniche. Dunque, io però, prima di tuffarci quindi a bomba sulla puntata di oggi, caro Edo, vogliamo raccontare al volo che cosa non abbiamo mandato e che cosa invece, ovvero Tre Volte Marco Valdo, che manderemo nelle prossime puntate, e anche da cosa faremo sentire subito dopo lo stacco musicale che manderemo fra poco, quali letture saranno, che cos'è Congiunti e di cosa parla? Sì, beh, come dicevi tu, avevamo già un programma piuttosto fitto e corposo già per queste prime due puntate, che poi in realtà sarà comunque, anche se in versione, in un format un po' diverso, però appunto uno dei libri, una delle idee che forse avevamo un po' fin dall'inizio era quella proprio di alternare delle dirette radio, quindi con delle letture in diretta radio, con dei podcast, diciamo, da mandare, di presentazioni registrate, presentazioni fatte dal vivo, da mandare poi successivamente su PoYut e su Radio Wombat. Chiaramente la situazione, visto insomma tutto quello che sta succedendo con l'epidemia e con chi, diciamo, ci fa i decreti, insomma tutta questa situazione ha complicato un po' i piani, però appunto oggi pensavamo di fare alcune letture da alcuni libri, uno in particolare che è uscito proprio durante, subito dopo lo scorso lockdown, il precedente lockdown, perché è uscito, diciamo, qualche mese dopo, perché è uscito a luglio, ma si tratta di un'antologia che si chiama Congiunti, pubblicata da Edizione Ensemble, che è la stessa casa editrice anche di Affluenti, che pubblica la collana di Affluenti, e sono in particolare, oggi vi leggerò alcuni testi dall'antologia di poesia, perché in realtà quelle di Congiunti sono due antologie. Una con testi in poesia e un'altra con testi in prosa con racconti, e sono due antologie uscite a luglio del 2020, ma con testi scritti tutti quanti durante il periodo del primo lockdown, e da vari degli autori che fanno parte, che in qualche modo compongono la rosa della casa editrice di Edizione Ensemble. E questa è una delle idee che avevamo appunto per questa prima puntata, dove inizialmente pensavamo appunto di mandare anche tutto un estratto della registrazione della presentazione di C'era Tre Volte Marco Valdo di Massimo De Micco, autore di Affluenti, libro pubblicato appunto per la collana di Affluenti, che doveva essere presentato tra 3 giorni, perché doveva essere presentato mercoledì prossimo, mercoledì 18 novembre, alla biblioteca Riccardo Torregiani presso l'associazione Quale Sola Strada Aperta, che come saprete sicuramente è un'associazione che si dedica in particolare a accoglienza e incontro fra culture in una delle vie di fatto più multietniche attualmente di Firenze. La presentazione del libro di Massimo c'era 3 volte Marco Vaggio, che è diciamo una sua rilettura, una sua reinterpretazione in chiave postmoderna, diciamo così, del Marco Vaggio di Calvino, molto ironica, molto divertente e anche molto dissacrante riguardo a tutte quelle che sono un po' gli immaginari, i linguaggi, diciamo, del potere, no? O comunque diciamo di una realtà socialmente costruita e costituita. Questo libro, questa presentazione ovviamente non è annullata, è soltanto rimandata, la faremo appena sarà possibile farla in presenza, perché Massimo ci terrebbe a farla in presenza, e quindi sicuramente appena avremo modo di presentare C'era 3 volte Marco Vaggio alla Biblioteca Torregiani, registreremo la presentazione e la manderemo per una delle prossime puntate di Holy Week qua su Radio Wombat. E oggi appunto iniziamo con le letture da Congiunti Poesia. Sì, infatti non mancheremo di seguire sicuramente la presentazione di C'era 3 volte Marco Vaggio. Ricordo anche che l'EIB, Le Pieghe del Corpo, invece che era l'altra presentazione che avremmo voluto fare, avevano già ricevuto una nostra telefonata fatta durante la scorsa primavera, la si può ritrovare nei podcast di Poi Uit, quindi c'è anche modo comunque di riascoltare quello che allora ci avevano detto in attesa di avere di nuovo ospiti fra noi qui a questa trasmissione. Dunque direi adesso mettiamo una canzone, ritorniamo subito poi con le letture direttamente da Congiunti. Ricordo che assieme a me a condurre c'è Edoardo Olmi, esso stesso autore, e ricordo anche il suo lavoro come editore all'interno della collana Affluenti, dentro ad Edizioni Ensemble, è lo stesso curatore di antologie, critico, insomma, ma meglio che me si presenterà da solo facendo sentire le sue cose, parlando assieme a me con i nostri ospiti di poesia e di letteratura. E allora, adesso, stacco musicale e fra 2 minuti le letture di Congiunti. Wombat. Tiki tiki tiki tiki tiki juma tiki juma tiki tiki tiki tiki tiki juma tiki juma tiki tiki juma tiki. Kleine dicke Junge, komm raus, wir haben Spaß. E rieccoci di nuovo in diretta su Poio It, la trasmissione dedicata alla letteratura qui su Radio Wombat, in particolare, come ormai sapete, soprattutto a quella letteratura solidale, libera, critica della società capitalista in cui viviamo, non solidale con, solidale in generale, critica della società capitalista in cui viviamo. Oggi mi intorto, ma anche un pochino l'emozione del rinizio. Per fortuna c'è chi adesso sta per dare un attimo di poesia a questa puntata, e è in particolare Edoardo Olmi che ci leggerà qualche estratto, alcune delle poesie estratte da Congiunti, l'antologia appunto uscita luglio scorso per Ensemble, di cui poco fa abbiamo parlato. Che cosa ci fai sentire, Edo? Sì, pensavo di iniziare con una poesia di un'autrice che avete già ascoltato qua su Radio Wombat durante i mesi del primo lockdown. Lei si chiama Barbara Serdakowski, è un'attrice di origine polacca che ha vissuto in vari paesi, anche in vari continenti, e che da diversi anni, credo dal 94 forse o qualcosa del genere, vive qua in Italia. Ha pubblicato due libri, se non sbaglio, con Edizioni Ensemble, e fra l'altro apre anche la seconda, la nuova antologia di Affluenti, che è uscita essa stessa a luglio scorso e che si apre appunto con alcune poesie multilingue di questa autrice, Barbara Serdakowski. E Barbara si trova anche appunto nell'antologia di poesia Congiunti pubblicata da Edizioni Ensemble lo scorso luglio, e questo primo testo che vi leggo si intitola Magra e Famelica. A te. Magra e famelica, l'empatia gettata come dadi nel mare da subito ridiventato nero, giocando agli Aloisi, commisse, polmoni, leggi, valori, l'avanzo del creato, quadrati di foreste stesi al sole, o cuciti insieme, patchwork, di pelli, di capelli, di ossa, tutto da ricontare nei paradisi del mondo. Orde di droni sul creato, occhi appesi, girevoli, dietro le maschere e sangue sbiancato, lasciato per dopo, raffermo, ore di tempi ottusi, tamburi passati. Di carni, sotto garze appiccicose, tutto lento, nelle tasche di giorni umidi, bottoni tirati al lucido, e salmi recitati con sorsi d'aria corta, tosse secca e colpe da spartire uniformemente. Questa era Barbara Pumhousel, come ha già ricordato Edoardo. Barbara Serdakowski. Scusami, Barbara Serdakowski, abbi pazienza, certamente, che avevamo già invitato appunto la scorsa primavera, e la cui voce si può appunto riascoltare nell'archivio di Poio It. La prossima lettura invece? Pensavo di proseguire con un altro autore, un autore siciliano che si chiama Roberto Chenò e che ha pubblicato nel 2019, se non sbaglio, il suo secondo libro con Edizioni Ensemble e Ineffabile Mutazione, il quale libro di Roberto Chenò è uscito appunto per Ensemble, ma all'interno della nostra collana, ovvero della collana di Affluenti. È un autore che conosciamo, che saluto tra l'altro nel caso in cui sia all'ascolto e a cui teniamo anche particolarmente. Questa sua poesia, contenuta nell'antologia Congiunti, si intitola Soffro di umanità. Sì. Sì. Ti ho osservata quasi tutta la sera, gli occhi rivolti verso il basso, non del tutto aperti. Che peccato, che spettacolo negato al mondo. Come diretti su te stessa, le tue profondità schermate da un velo di assenza, di altrove. Il tuo sorriso alla mia frase, soffro di umanità, è stato un lampo, un richiamo, un immediato riconoscersi, e non è vero, non andavi solo in avanti, ma anche indietro. Ondeggiavi come in balia di spumosa risacca, in una vita di coste, approdi, partenze, mancanze. Ed eccoci sempre con Edoardo. Allora, avanti tutta direi, anche perché il tempo c'è un po' tiranno con le prossime due letture. Allora, dopo Roberto Crinò, e un altro autore, fra l'altro esso stesso parte della collana di affluenti, autore di origine partenopea, perché originario di Napoli, ma che vive da tanti anni a Pisa, si chiama Vincenzo Mirra, e anche questo suo testo mi ha colpito, fra i vari che sono contenuti nell'antologia di Poesia Congiunti, si intitola DPCM 43 2020. Tutto chiuso, tutto sospeso, la finestra bagnata e un rivolo che inesorabile muto la percorre. Poi un altro, e subito uno ancora, nuovo al primo, uguale all'altro, uguale a sé. Fuori piove, piovono notifiche di eventi annullati, appuntamenti sospesi e anche il mio lo è. Io che volevo offrirti i versi con il tè. Non posso garantire la distanza di un metro dalla poesia. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 43-2020. Chissà cosa canterebbe oggi Lucio, marinaio del 43, se è ancora bello quell'uomo venuto dal mare. Fuori piove. Anche al confine fra Ancara e Atene piove. Un esodo di disperati, uomini respinti da altri uomini. Così, nella spietata natura di sé, l'uomo respinge la sua specie. Sono vietate tutte le manifestazioni di rispetto e tutela della dignità umana, sembra recitare l'insensata ordinanza della pestilente miseria dell'uomo. Un bimbo è morto a Lesbo. Non siamo capaci di fermare le guerre. Come possiamo fermare il virus? Un metro di distanza, dite? Oggi non sono sicuro che ci salveremo da noi stessi. Avviso ai naviganti, in Antartide superati i 20 gradi centigradi, dove prima era il bianco perenne dai ghiacci, è emerso il granito di Sif, nuova isola, roccioso sperone brunito. Fuori ancora piove. Ho messo a bollire l'acqua per il tè. Sono in quarantena domiciliare con la poesia. Era Vincenzo Mirra, che come Barbara e Roberto sono presenti nell'antologia Congiunti, edita pubblicata da Ensemble appunto a luglio scorso. Ma Edo, non abbiamo finito, abbiamo ancora una lettura sempre dall'antologia, giusto? Sì, e un altro autore che conoscevo di nome in realtà, ma di cui non avevo ancora letto molto, che mi ha colpito la sua poesia, sfogliando l'antologia Congiunti, un altro autore Ensemble che si chiama Manuel Omar Triscari, o Triscari, questo lo scopriremo solo quando eventualmente lo inviteremo qua su Radio Wombat, e credo sia un autore di Torino. La sua poesia, scritta evidentemente durante il lockdown, si intitola Passano i giorni. E come tronchi marci cadono i concetti. La carne e la mente si disfano come aringhe avariate. La gioia vola dritta verso il sole su ali di cera e l'angoscia danza su ali di seta, librando il suo canto di disperazione finale. Le parole volano come foglie impazzite nella tempesta e si perdono nella notte scura come il vino, densa del fumo delle mie sigarette. Ma la meta finale a malapena si distingue fra la nebbia e il corso delle cose si spezza e si frange il ricorso della storia. Ogni schematismo, ogni ideologia a farsi fottute dalla prova della realtà. Il destino inesorabile viene verso di me con alito fetido di uova marce e orridi peli ispidi, esiziale. La vita è solo la radice quadrata di uno zero, al quoto di un bel niente. I ricordi come pugnali volanti affondano nel cuore e come denti affilati lacerano le viscere con mille sottili lame. Come il vento che con vane sequele lincia le vele, i rimpianti bruciano dentro di me come sale sulle ferite e il coltello rigira nel mio petto come un frullo impazzito. Occhi di catrame rosi dall'interno, da un qualche topo putido, scarpe che non ragionano nel fiammeggiante meriggio luttuoso, mani ruvide e ustionate dai morsi del freddo ghiaccio, cuore all'abbiaccio nelle notti senza luna, ossa arrugginite dal vento di brina. Solo il virus tiene duro. E questa era l'ultima, giusto Edo? Era l'ultima delle quattro poesie che volevamo leggere. Sì? Sì. Sì, sì, sì, erano diciamo quattro assaggi appunto di questa doppia antologia di poesie e di racconti, di cui oggi vi abbiamo letto alcuni testi poetici, appunto, che sono le due antologie congiunti, poesie e racconti, uscite per ensemble, appunto, con tutti una cosa particolare, devo dire, anche coraggiosa in qualche modo, se volete, perché mettere assieme sono veramente tanti, solo qui nell'antologia di poesie credo saranno almeno una ventina, sì, forse almeno una ventina di autori, che ce ne sono forse ancora di più nell'antologia racconti, mettere insieme così tanti autori di una stessa casa editrice intorno a tematiche, soprattutto in un momento così particolare, no? Complesso, anche difficile in qualche modo, come quello che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando, e è un progetto che penso abbia funzionato anche molto bene, perché poi questi autori in qualche modo sono veramente congiunti, nel senso che da queste antologie poi è nato un percorso poetico vero e proprio, e sono stati fatti vari eventi, insomma, quindi tutto questo ovviamente un po' come anche per quanto riguardato anche per esempio il progetto di Affluenti, anche congiunti è andato ben oltre, no? L'antologia, ben oltre il libro stesso, è diventato un qualcosa, diciamo, e anche da condividere e da mettere assieme, ecco. Quindi sì, insomma, mi sembrava bello in questo momento, ecco, dare uno squarcio di questa antologia e di questo progetto e per l'edizione Ensemble. E poi soprattutto si parla di un progetto appunto comune che ha visto le autrici, gli autori lavorare e presentare assieme, ma che non rinuncia, direi, come abbiamo sentito del resto, alla propria coralità, a quelle voci diversificate, potrei dire frastagliate, da echi campaniani come gli ultimi fino al realismo delle prime che abbiamo sentito. Beh, ricordo comunque gli autori e le autrici che abbiamo sentito oggi sono Vincenzo Mirra, Barbara Serdakovsky, Roberto Crinò e Manuel Triscari, se non sbaglio l'ultimo. Triscari, questo ripeto, quando lo metteremo su Poesit lo è infatti un'ottima occasione anche per invitarlo, quella del domandargli la giusta pronuncia del nome. Sono assolutamente d'accordo. Cosa ricordare se non che questo libro lo si può sicuramente trovare sul sito edizioniensemble.it, giusto? Sì. Sì. Assolutamente sì, si trova nel catalogo di Ensemble insieme a tutte le altre novità, e trovate anche le due antologie congiunte. Bene, bene, allora andiamo veloci perché abbiamo ancora un sacco di cose di cui vogliamo parlare. Allora, se sei d'accordo, caro Edo, ringraziando e salutando chi ha prestato la propria penna per queste poesie, Ensemble che le ha raccolte e te che ce le hai oggi lette, passiamo, ma rimanendo sempre nello stesso tema, passiamo a un altro momento di questa trasmissione, ma se sei d'accordo lo facciamo dopo uno stacchettino musicale, canzoncina, e ci risentiamo fra due minuti. A fra poco. flip flop and I walk out. Can you believe it? I can't believe it, but it's true. Is a burning thing. Rieccoci, rientriamo in diretta. Beh, visto che continuano a salire gli ascoltatori, le ascoltatrici, si beccano un mio saluto di nuovo, ma anche vi ricordo che siete all'ascolto di Poi Uit Lettere Contrarie, la trasmissione di letteratura di Radio Wombat, che va in onda ogni seconda domenica del mese. Questa è la seconda stagione di Poi Uit e da questa, che è la prima puntata, ci sarà assieme a me, c'è assieme a me Edoardo Olmi. Edo, ci sei sempre, vero? Non sei scappato? Eccomi, ci sono, resisto insieme a voi. Grande. A proposito di resisto, io approfitto per ricordare che Edoardo è autore, poeta. L'ultima sua pubblicazione, se non sbaglio, l'ultima è Rexistence, giusto, del 2017. Ma noi ci conosciamo del resto già da prima che tu pubblicassi la tua prima. Quanto è passato? Più di 10 anni, già da prima del Porcospino in Pegaso. Ma invece che lanciare così qua e là io qualche abbocco, vuoi velocemente introdurti te, oltre che conduttore di Poi Uit assieme a me? Beh, in effetti, Mario, non so veramente come fai a sopportarmi da così tanto tempo, di essere veramente un bel po' che ci conosciamo, sì, dai tempi del Porcospino in Pegaso, il mio primo libro, uscito nel 2010, con Felice Editore, una casa editrice di Pisa, e poi pubblicato in nuova edizione da Edizione Ensemble, appunto, che è anche la casa editrice con cui sono curatore, insieme a Marco Cardona, della collana editoriale, nonché delle due antologie di Affluenti, appunto. Ed è Edizione Ensemble anche la casa editrice che ha pubblicato il mio ultimo libro, che è Rexistence, appunto, uscito nel 2017, che abbiamo presentato tra l'altro al terzo, se non sbaglio, festival di letteratura, secondo festival di letteratura sociale in Polveriera, e adesso sto lavorando anche su un libro nuovo che spero di poter far uscire prima possibile. Beh, e a proposito di cose nuove, Io lo annuncio io, dai, lo annuncio io che stai per leggerci qualcosa, qualcosa che per i più fedeli ascoltatori non risulta nemmeno del tutto nuovo. Infatti la prima parte di ciò che ci stai per leggere lo abbiamo già iniziato a sentire la scorsa primavera durante una di queste dirette di Poi You Hit, la prima assieme a te. Quello che stai scrivendo è qui, quello che ci stai per leggere, ma lascio a te l'onore di introdurlo, insomma. Ci è inedito, giusto? È qualcosa di finora non pubblicato. Sì, in realtà è una poesia che è se stessa, diciamo, che aspetta anche lei il picco virale, nel senso che è nata dopo vari tentativi di provare a non scrivere niente su tutta questa situazione, e poi in qualche modo inevitabilmente delle cose, delle suggestioni sono, come a volte, come spesso accade, no? È la poesia che parla e tu cerchi in qualche modo di tradurla, no? Spesso non è neanche tanto l'autore, appunto, che la va a cercare, tantomeno che gli dice come e quando deve parlare. E quindi questo testo, questa poesia che si titola, titolo più o meno provvisorio, Diceria degli Untori, che è ovviamente un omaggio in qualche modo a Gesualdo Bufalino. È una poesia che dopo la fase 1, quella che leggemmo durante le trasmissioni del primo lockdown, è entrata anche lei in fase 2 e quindi si è ampliata, diciamo, con una seconda parte che è appunto la fase 2, diciamo, degli Untori, ecco. E ce la stai per far sentire in grande anteprima qui su Radio Wombat, giusto? Vostro malgrado sì. E allora abbasso la musica e siamo tutto orecchi. Diceria degli Untori, titolo provvisorio, Edoardo Olmi. Fase 1 D. Siamo banditi del progresso, malati terminali in una civiltà dove i droni annunciano equinozi di primavera. La fuga di Olimpia è indiretta da Barbara D'Urso per applicare la sceria della sanità agli spazi liberati del Toccari. Mendichiamo un'ora d'aria di libertà al sacramento del io resto a casa, contrabbandiamo sguardi e passeggiate con il cane. Ipocondriaci per DPCM, immunodepressi nel difendere la vita dei più deboli. Col distanziamento sociale delle resistenze, dentro la Wuhan della vasta padana, Golia che si è arresa a un millesimo di micron, indossiamo le inferriate, evitando di inalare i moscerini nel giro del cortile in 54 giorni. Rimandiamo a fine anno la guerriglia partigiana, raccontandoci che niente sarà più come prima. Eppure le stagioni sfrigolano, i tassi corrono veloci lungo via Pietrapiana, delfini vanno a caccia attorno al Lido di Venezia, orsi che sgambettano sul passo del tonale, ippopotami nei resort, fra le spiagge dell'Oceano Indiano. Il mondo si è preso qualche anno sabbatico, la scienza ci riduce a particelle di particolato, negli spasmi interstiziali della modernità. Fase 2 D. I rave in equilibrio sull'elastico, le feste di laurea sulle piste ciclabili, sgomitando affetti stabili di secondo grado rimasti troppo tempo senza aperitivo sui navigli, assembramenti dei rider al protocollo per le attività economiche già essenziali, ma chi dai primi giorni a malapena ti scansava adesso fa lo yoga in fila al supermercato. Pane e coperto servito sotto i portici nel masticare un senso di horror vacui fra i cuba libri offerti alla municipale nella movida a prova di aerosol. E schermi piatti con le cicatrici dove è impossibile rimarginare un futuro affidato da parole apprese affilate coi pronomi determinativi. I bagni turchi nelle librerie sfogliando Hikmet coi preservativi per le mani, dispositivi indossati a tracolla da fare invidia alle borsette H&M ed il design di braccialetti accattivanti per corteggiarsi nel restiamo a distanza, o app immuni per mappare se anche Wally è prossimo alla soglia di R0. Sul profilo Facebook delle pari opportunità, le giornate per l'indipendenza dei nativi digitali. Perché il governatore medio non aspettava altro che un hashtag con cui giocare agli eroi mascherati e commentare il sacrificio della patria nostra è consumato, comodamente seduti sul portatile di casa, pascolando fra i recinti del Ripartiamo Italia, ruminando breaking news nella post-truth society, ma preparando assalti frontali ai virus della diffidenza e dell'auto da fé. Love is a burning thing. Ed era Dicerie degli Untori, abbiamo sentito anche la seconda parte, mentre la prima l'avevamo già ascoltata durante la prima stagione di Poi You Eat, opera ancora inedita di Edoardo Olmi. Che dire, Edo, grazie per averla letta qui, a me è piaciuta, ma come del resto già la prima, davvero molto, ed è penso un piacere anche per i nostri ascoltatori avere ascoltato, e spero presto poter anche leggere questo e i tuoi prossimi lavori. Siamo in attesa. Grazie a voi, è un piacere per me averli potuto condividere con voi, fra l'altro in anteprima, perché sono appunto tutti i testi che sto leggendo e condividendo qua su OUI in anteprima più o meno assoluta, e quindi sì, assolutamente spero che ci sarà modo di continuare questo percorso assieme. Evviva! Allora, prima di passare un attimo alla prosa, visto che se ci prendiamo io e te troppa corda finisce che parliamo sempre solo di poesia, vogliamo anticipare le due ospiti che avremo la prossima puntata, Edo? Sì, pensavamo appunto, dovevamo un po' capire se riusciamo ad inserire per questa puntata oppure per la prossima, però ci sarebbe l'idea di presentare Chiara Noghiglia e Ludovica Lanini, che saluto entrambe nel fatto in cui siano all'ascolto, due autrici che hanno pubblicato due libri molto belli, Svolgermi ramificata di Chiara Noghiglia e Crollo d'impero di Ludovica Lanini, che sono fra l'altro due dei primi tre titoli, se non sbaglio, o tra i primissimi titoli, di una nuova collana editoriale che è da poco nata per l'edizione Ensemble, collana editoriale che si chiama Her Kind, ed è una collana editoriale di poesia interamente al femminile, curata da Alessandra Bava, che oltre ad essere la biografa ufficiale di Jack Hirschman, poeta laureato di San Francisco, è anche la fondatrice, la co-fondatrice insieme a Marco Cinque del gruppo romano delle Revolutionary Poets Brigade, progetto nato appunto a San Francisco tramite Jack Hirschman. In particolare il libro di Ludovica Lanini, Crollo d'impero, ha anche niente meno che una prefazione di Jack Hirschman, che Ludovica ha conosciuto, poi lei ce lo racconterà durante un festino a casa sua fondamentalmente in qualche anno fa, dove non so come riuscire a far entrare tipo 50-60 persone in una casa che è piccolissima, cosa se la vai a raccontare una che ora ti denunciano per assembramento, e quindi diciamo sono due libri, insomma, pensavamo di fare un excursus su questa nuova collana edizione Ensemble Her Kind con Chiara Noghiglia e Ludovica Lanini nella prossima puntata. Sì, questa infatti la prossima, ma anche tante altre sorprese per le puntate dopo. Abbiamo alcuni libri che saranno presto pubblicati già da dicembre da alcune case editrici indipendenti fiorentine, altre cose che sono state già presentate in anteprima al Festival della Letteratura Sociale e cose ancora nuove che vogliamo organizzare. Sarà assolutamente ricca questa stagione di Poi You Eat. Beh, ma intanto lo è anche questa puntata che vogliamo andare a concludere verso la prosa. Infatti adesso, dopo lo stacco musicale che stiamo per mettere, sentiremo Alberto Prunetti e Wuming 4, che hanno fatto due dei loro interventi fatti durante sono degli stralci della più lunga presentazione di Chav, Solidarietà Coatta, un libro pubblicato quest'anno da Alegre, tradotto da Alberto Prunetti stesso, che infatti nel primo dei due interventi che ascolteremo, che è il suo, ci racconta anche la genesi, un po' la storia di questo libro, per passare poi parola a Wuming 4, che farà altre considerazioni, taglio più generalista, politico, diciamo. Durano circa 15 minuti l'una, le dividiamo con uno stacco musicale. Le potrete anche riascoltare per intero sul sito della radio, radiowombat.net, o anche quello vecchio per chi è affissionato in attesa di migrare, ovvero wombat.noblogs.org. Si possono scaricare e riascoltare per intero le presentazioni fatte durante il Festival della Letteratura, fra cui questa, di cui stiamo per mandarvi qualche due estratti. Noi invece ci risentiamo a questo punto fra mezz'ora per i saluti, io sono Mario, accanto a me Edoardo Olmi, questa è Poi Uit, siete su Radio Wombat, 13.59 AM. Wombat, a fra poco. Il libro di Hunter racconta esperienze dolorosissime e al tempo stesso anche molto molto diffuse. Lui è uno dei pochi che probabilmente ha avuto la forza di riuscire a raccontarle, cosa che è tutt'altro che scontata, perché in genere se tu fai quelle esperienze e vieni da quel mondo sottoproletario del nord dell'Inghilterra, è abbastanza raro che tu nella vita ti ritrovi a mettere il tuo nome sul frontespizio di un libro. È più facile che tu finisca in carcere o in un ospedale psichiatrico, che sono tutte cose che sono successe all'autore del libro, che è passato sostanzialmente nei primi 25 anni della sua esistenza attraverso tutte le strutture totalitarie, quindi dal riformatorio al carcere, all'ospedale psichiatrico. Avevo sentito appunto in questo profilo parlare di questo libro, ho detto ma lo compro per leggermelo, e non, la cosa più semplice era comprare una versione elettronica, e si poteva comprare direttamente dall'autore perché era un libro autoprodotto e non aveva distribuzione. Cercandolo in rete avevo visto che veniva, in realtà, che aveva creato un profondo dibattito e veniva presentato spessissimo dall'autore in situazioni di movimento. E quindi nei movimenti della sinistra antagonista britannica, e mi aveva incuriosito perché se ne parlava come un libro working class queer in un contesto in cui in fondo tanti libri di letteratura working class effettivamente avevano questo approccio fortemente testosteronico, per cui erano storie effettivamente di maschi bianchi che parlavano di calcio, birra e cazzotti, e che magari sono anche belli, come possono essere i romanzi di Irving Welsh, però un po' avevano questa zavorra, e all'inizio pensavo fosse magari un po' un libro su quell'onda lì. E quando mi sono scambiato alcune mail con l'autore, perché sbagliava ogni volta a mandarmi la mail giusta del libro, quindi mi mandava le cose più assurde o versioni corrotte del file, alla fin fine mi ha detto beh, mi ha fatto una specie di bocca al lupo, ma di vedrai che legnata. E io ho detto ma vabbè, figurati, cioè, le storie di classe operaia le conosco. E poi mi sono messo alla lettura, effettivamente era una legnata, e la legnata peggiore mi è arrivata non facendo la prima lettura, ma quando, dopo averlo letto, io poi l'ho proposto a Alegre per la collana Working Class che curo, e quando poi l'ho tradotto la lignama è arrivata davvero, perché tradurre un libro significa che ogni parola tutta la devi in qualche maniera centrifugare nel cervello, spesso vai a letto portandoti dietro degli stralci di frasi che il giorno dopo, sai, quando accendi il computer dovrai risistemare, e mi stavano in capo le pagine di questo libro, che spesso sono durissime, soprattutto nelle pagine degli stupri che lui racconta, sono estremamente pesanti. È un libro in cui si racconta i traumi sostanzialmente che il capitalismo infligge alle fasce meno protette, con meno capitale familiare, culturale, relazionale, politico, sostanzialmente a quel proletariato che si è sottoproletarizzato in seguito alle trasformazioni della società che Thatcher ha imposto ai primi anni Ottanta nel Regno Unito, e che poi sono dilagate in qualche maniera in tutto il mondo. E il risultato è quello di esperienze raccontate da The Hunter. Un'altra cosa che non mi aspettavo e che mi è piaciuta fortissimo e che tantissimo, e che mi ha spinto a poi anche appunto a proporlo a Alegre, è che il libro, nonostante racconti traumi pesanti, è un libro tutt'altro che vittimista. Cioè l'autore non scrive con l'idea di commuovere, di sollecitare il senso di colpa del lettore middle class, non cerca di impietosire, racconta esperienze di violenza di uno che ha subito violenza e che ha perpetrato a sua volta violenza e che poi in qualche maniera, con un processo lungo che poi magari raccontiamo, è riuscito in certo modo a rompere questo ciclo di violenza, pur vivendo in una situazione estremamente contraddittoria. Lui parla di questa sua identità che è continuamente cucita, tenuta assieme. Dice: se mi incontraste oggi avrei a vostri occhi probabilmente l'aspetto di un bibliotecario appena uscito per fare la spesa, no? Però agli occhi di assistenti sociali, sbirri e delle persone per bene delle classi medie, io ero un chav. Che cosa sia un chav è una delle questioni che ci siamo posti, ci siamo confrontati anche con Federico al momento di scegliere il titolo del libro, perché chav ovviamente è un acronimo, un neologismo entrato negli anni 90 nell'inglese, che raccontava, diciamo, che stigmatizzava in senso punitivo le persone cresciute nei quartieri popolari, nei blocchi delle case, delle social house. Quindi era, in realtà vuol dire council housed and violent, quindi diciamo in italiano è un'esperienza, il violento della 167 o che ne so, il tira di bottà, il legna dello smannoro, ecco, per capirci. I quartieri bolognesi li conosco meno, però è un termine dispregiativo che sostanzialmente poi vuol dire stai lontano dalla mia porta, quando viene detto da una persona middle class, o brutto stronzo quando viene detto da un poliziotto che sente in dovere di troncarti di legnate perché tanto non sei il tipo che andrà a cercarsi un avvocato, ecco. E in realtà l'operazione che fa narrativa, che fa l'autore, è molto strana, perché il libro non è un romanzo, non è un memoir, a tratti sembra un saggio di sociologia condito però con degli aneddoti personali. È un libro scritto in realtà da una persona che fino a 23-24 anni aveva... lui dice che a 23-24 anni ha riniziato a scrivere, perché prima sapeva solo fare la sua firma, sostanzialmente. Lui andava a scuola se avevo bisogno di mangiare un piatto di minestra calda, e se volevo un cheeseburger andavo a rubare un portafoglio e poi andavo al McDonald's. Cioè, quella è stata sostanzialmente la sua esperienza scolastica fino ai 10-11 anni. E poi per 5 anni, fra 10 e 15 anni, ha vissuto prostituendosi, e dopo 15 anni si è dedicato allo spaccio e ai furti. È uscito da queste esperienze, e qui è l'altro aspetto interessante che ci interroga un po' tutti noi, e sostanzialmente un po' per botta di culo, come probabilmente succede, per relazioni che credo anche sentimentali che ha avuto con persone di middle class, ed è molto interessante quando lui racconta come si è dovuto mimetizzare per riuscire a ottenere dei lavori middle class, ma in realtà sono lavori di working class onesta, diremmo, tipo fare l'infermiere o forse l'assistente, l'ausiliare, diciamo, no? L'OS, per riuscire a fare questi lavori, cioè, si vesteva in una maniera diversa e doveva dare l'indirizzo di un amico, perché se dava l'indirizzo del suo quartiere, cioè l'indirizzo di quel quartiere era praticamente un indirizzo che veniva scartato, il codice postale veniva scartato da qualsiasi possibilità durante l'analisi dei curricula. Lui racconta di aver imitato anche il modo di parlare delle persone di middle class, il modo di ridere in maniera controllata di cose che magari non lo facevano neanche ridere, di abbassare i toni, di non parlare a voce troppo alta, di non fare battute sessiste. Sul tema del sessismo c'è da discutere tanto, perché il tema della questione di genere, della sessualità, è un tema che taglia totalmente il libro. E anche questo è interessante, perché si tratta di una persona queer che sostanzialmente per anni è vissuto e è sopravvissuto in un ambiente totalmente tossico come potrebbe essere quello di un carcere, agganciandosi al fatto che sostanzialmente era un maschio ed era bianco. Questo è sorprendente, perché lui ti racconta delle esperienze devastanti, dove veramente tu che leggi ti sentiresti totalmente perso, e lui dice di essere sopravvissuto a questa esperienza, violentato in carcere da compagni di cella o da poliziotti, semplicemente per il fatto che alla fin fine era bianco ed era un maschio. Lui diceva: se fossi stata una donna probabilmente sarei rimasta incinta e non avrei potuto iniziare un percorso di attivismo nei movimenti sociali, e mi ha permesso di sfuggire alla situazione in cui ero rimasto intrappolato. Se fossi stato un nero, dice, ma non ho mai visto un nero farcela, di quelli che stavano con me in galera. E questo è un altro aspetto interessante, perché alla fin fine ci racconta quanto la working class sia in qualche maniera costretta, per sopravvivere in situazioni tossiche, prive ma di solidarietà di classe, a identificarsi con certe caratteristiche dei propri sfruttatori. E in genere gli sfruttatori sono bianchi e sono maschi. E quindi in qualche maniera lui racconta benissimo questo andare in cancrena delle relazioni di classe all'interno, per esempio, di quartieri popolari britannici, dove la classe operaia bianca è spinta a entrare in conflitto, ad esempio, da un razzismo alimentato poi in realtà da agenti che stanno ai piani alti della società, entrare in conflittualità fra poveri su linee razziali o etniche, per evitare una solidarietà che, secondo lui, ne fa poi degli esempi tangibili, anche se poi sono esempi pure gli esempi di solidarietà sono abbastanza pesanti, ecco, non è che parla poi di esperienze di autoaiuto, ecco, quello ve lo leggete. Quindi in qualche maniera il libro di Hunter è un libro che non è assolutamente consolatorio. Ci sono tra l'altro in certi punti può quasi sembrare irritante, nel senso, ad esempio, lui fa una critica dei movimenti sociali che è estremamente forte. In realtà lui dice che quando critica i movimenti sociali critica anche se stesso, perché lui non è fuori dai movimenti sociali inglesi. Però, per esempio, comincia in maniera provocatoria, sono quasi sempre le sue pagine, dicendo che quando lui è andato alle prime riunioni in squat, in situazioni abbastanza simili a quella in cui siamo noi in Inghilterra, nell'accento, sapete, l'accento in Inghilterra ha una determinazione di classe, lui nell'accento dei suoi compagni politici ritrovava lo stesso accento delle persone che lui andava dove lui andava a far furti, o dei giudici che lo avevano condannato. E ci racconta i movimenti sociali in cui effettivamente ci sono persone che hanno comunque alle spalle capitali familiari, relazionali, che possono in qualche maniera permettersi di fare attivismo, di sbagliare e di ripartire con una nuova, questo attivismo, e vengono spinte, si ritrovano in questa situazione, che appunto vengono catechizzate dagli stessi attivisti di sinistra, che poi, quando alla fin fine non riescono a tirarci fuori nulla, a quel punto li stigmatizzano anche loro, di nuovo con la solita parola dei poliziotti e degli assistenti sociali, cioè gli davano del ciav. E lui dice: si trova in questa strana situazione in cui, paradossale, no? Cortocircuito psicologico, per cui quando cercava di imitare l'accento middle class dei suoi compagni di movimento, veniva ascoltato, però poi alla fin fine le sue tesi sembravano sgangherate. Quando invece raccontava il suo vissuto da sottoproletario, con il suo accento, in quel momento sì, le sue memorie avevano un valore testimoniale, però le sue analisi politiche erano considerate naif, rozze e grezze, e sempre lo ricacciavano in qualche maniera indietro rispetto agli altri. E fa anche poi degli esempi concreti, per esempio ci parla di questi movimenti sociali britannici estremamente bianchi che facevano, che, so, che organizzavano un evento sulle Pantere Nere, e in cui per esempio i neri stavano fuori perché la sala era piccola, non c'era posto per tutto, in sala c'erano solo bianchi e i neri erano rimasti, i pochi militanti attivisti neri erano rimasti fuori. Tutto il libro lo potremmo abbastanza aprire su queste tre linee di genere, classe e etnicità, in questo senso ha proprio un forte approccio intersezionale. Mi piaceva nella collana Working Class perché credo sia uno dei pochi esempi di un approccio queer che non prende la strada del tema del transfuga di classe. Ad esempio in Francia c'è tantissima letteratura anche di altissima qualità di autori che ci raccontano sostanzialmente che ci raccontano la durezza della vita operaia, il maschilismo delle vite operaie, il fatto che uscendo dalla classe, accolti diciamo nella borghesia dopo cicli di studi che hanno fatto di loro delle persone, magari degli accademici, possono raccontare tranquillamente, vivere tranquillamente la loro omosessualità. E questo tipo di narrativa in qualche maniera solletica il senso di superiorità etica della borghesia, perché i lettori che leggono questi libri effettivamente si sentono in qualche maniera confortati sul fatto che il loro mondo è un po' più accogliente di quel mondo di bruti working class. Lui racconta in realtà un'esperienza estremamente diversa, per esempio parla del fatto che che vivevano per strada a 10 anni erano comunque una sessualità non recintata rispetto ai loro omologhi che vivevano nelle villette middle class, e che gli sfruttatori del corpo di questi bambini poveri in realtà era la stessa classe media che poi si vanta di essere un ambiente confortevole per i diritti di genere, e quando legge opere come magari Ritorno a Reims, e quindi in realtà ci racconta rovescia la prospettiva diciamo di certa narrativa del transfuga di classe tipica direi per lo più francese, e è anche per questo che mi sembrava ottimo inserirlo nella collana. I found my love by the guesswork's plot, dreamed a dream by the old canal, kissed my to your time. È curioso, insomma, che dopo che uno ha letto tutta la, insomma, buona parte della vita di Hunter e pensa che non poteva andare peggio di così, appunto, che lui dica invece no, ma se fossi stato donna o nero mi sarebbe andata peggio. Quindi, tutto sommato mi è andata anche bene. Fa molto effetto, ecco, leggere questa considerazione, in effetti, ha fatto molto bene a riprenderla. Detto questo, io partirei dal punto, diciamo, a raccontare del libro dal punto di vista letterario, perché quando l'ho letto a me, così di primo acchito, mi è venuto in mente Oliver Twist, cioè la tradizione letteraria inglese, proprio quella nobile, diciamo, quella dell'Ottocento, del romanzo inglese dell'Ottocento, di quegli autori, appunto, che per primi, come Dickens, provavano a raccontare la working class, ovviamente dal loro punto di vista, da un punto di vista molto edulcorato, etico, borghese, però per primi cominciavano ad avere questo sguardo, ecco, su quali erano i prodotti umani, sociali della grande metropoli, eccetera, eccetera. E appunto, leggendo queste pagine, ho detto: questo è Oliver Twist nel XXI secolo, cioè questa è la storia, appunto, di un ragazzino che non viene però salvato dai buoni, non viene salvato da quelli che fanno la beneficenza, da quelli, insomma, che fanno le workhouses, eccetera. No, lui in buona sostanza viene salvato un po' da una botta di culo, come hai detto tu, perché ci vuole anche quella, ma da altri incontri che fa effettivamente lungo la strada, e in particolare da un ambiente che è quello, appunto, della militanza politica di base, nella quale trova in qualche modo una chiave di lettura per tutto quello che gli è successo. Trova, una volta si sarebbe detta, una coscienza di classe, ecco, che fino a quel momento non aveva avuto. In realtà questo processo comincia proprio, parte dalla lettura. Anche questo è molto bello, ecco, che queste cose accadano. Cioè, abbiamo sempre detto che accadano, ci crediamo, scriviamo e pubblichiamo libri, però quando poi lo leggi in un libro che questa cosa è accaduta davvero, ti rincuora. Cioè, lui in galera legge I quaderni dal carcere di Gramsci. Lì si trova e legge, appunto, quello che Gramsci scriveva in galera. E questo gli apre un mondo, appunto, gli apre la possibilità di leggere la sua storia in un certo modo, di inserirla in un percorso, e quando esce, poi, appunto, attraverso gli incontri con persone fisiche e situazioni, trovare anche una via diversa, una via alternativa per uscire dalla condizione in cui aveva passato la prima metà della sua vita. In questo senso è anche una storia di affrancamento, bisogna dirlo. Cioè, non è lo stesso percorso, appunto, dickensiano di quei romanzi, però è una storia vera, ma è una storia di affrancamento, è una storia positiva, tra virgolette, perché è importante sottolineare anche questo, ecco, è la storia di uno che comunque ce la fa, ma non ce la fa ad arrivare da qualche parte o chissà dove, ce la fa a portare a casa la pelle, ce la fa, appunto, a non doversi più prostituire, ecco, ma sta ancora ovviamente dentro la working class, è passato in qualche modo dal sottoproletariato al proletariato, ma sta ancora là dentro ed è lì che combatte con gli altri. Con tutta una serie di riflessioni ulteriori che lui fa, ne ha accennato Alberto, su questo nuovo punto d'approdo. Perché è sempre un dialogo, la struttura del libro è un costante dialogo tra il sé di prima e quello attuale. È molto bello dal punto di vista narrativo questo libro, perché non è una biografia, non è che lui ti racconta, appunto, per filo e per segno, sono nato il tal giorno, mi è successo questo, questo e quest'altro, no. Diceva Alberto, a tratti sembra quasi un saggio di sociologia, perché lui fa delle riflessioni, non particolarmente pompose, cioè molto lineari, molto dirette e immediate, e poi ti racconta un aneddoto, e poi ti racconta un episodio della sua vita, sempre mettendolo poi in relazione a questo presente in cui lui è arrivato, ma in cui non è che si senta a suo agio, e questa è anche la cosa fantastica. Non c'è un punto d'arrivo in cui lui dice: adesso sì, no? Appunto, ce l'ho fatta. Questa sarebbe stata una storia edulcorata, una biografia edulcorata. No, lui ti dice: anche dove sono arrivato ci sono un bel po' di magagne. Non sto comodo per niente. Prima di tutto per quella sensazione di disagio di cui parlava Alberto, gli dice: un po' mi devo mascherare, perché io sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè c'è una parte di me che è ancora quel chav là, non è che è morto quello là, ce l'ho, è il mio bagaglio, ce l'ho dentro di me, quello lì, no? Che invece che parlare ti prenderebbe a cazzotti, no? Quindi ce l'ho quella cosa, la contengo, mi adeguo, ma è chiaro che in questo mio adeguarmi c'è una forma, diciamo così, di moderazione, una ricerca di essere accettato, no? Ma dove, appunto, in quale ambiente? E la forza, secondo me, di questo libro, un libro che io veramente consiglierei a chiunque sia impegnato in un'attività di critica sistemica, in una realtà, in una situazione appunto di socialità o di attività politica alternativa al dato, io consiglierei la lettura di questo libro, perché a un certo punto lui riesce veramente a metterci allo specchio. Ora, dico metterci, cioè uso un noi sul quale dovrei mettere una foresta di virgolette, nel senso che se lo dovessi definire non saprei farlo, non saprei bene cosa oggi è noi. Ho detto chi si trova coinvolto attivamente, ecco, in un certo tipo di situazioni, di realtà e di esperienze, o chi la pensa in un certo modo, però come vedete sto molto largo. Potrei cavarmela così, dicendo chi cerca di agire in una maniera critica rispetto al dato, rispetto al sistema. Ora, perché Hunter ci mette allo specchio? Perché in buona sostanza, raccontando la sua storia, non è che fa la morale a nessuno lui, figuriamoci, dice: io vengo dalle bettole, vengo dai bassi fondi, non devo giudicare nessuno, però semplicemente ci descrive certe dinamiche psicologiche. Ha accennato Alberto, ma lui è ancora più incisivo, secondo me. Lui dice: guardate, io mi sono imbattuto in atteggiamenti molto snob, anche impliciti, anche non dichiarati, anzi a parole nessuno di questi attivisti, di miei compagni, perché sono i suoi compagni di percorso, è snob, ma vedo in loro in realtà molto idealismo, una grande idealità, ok? E poi, come sempre capita appunto alle cause ideali, nel momento in cui si scontrano invece con la difficoltà reale, che è enorme, perché i tempi che viviamo sono quelli che sono immediatamente pronti a disilludersi, tutto crolla immediatamente, appunto, e sotto sotto, insomma, è come se pensassero che in fondo quello che fanno non serve a niente. C'è una pulsione, diciamo, un istinto una consapevolezza, diciamo, di inutilità di quello che si fa, che viene mascherata da una grande idealità, da un grande raccontarsi quello che si fa, ecco, a fronte di un'incisività che invece lascia desiderare. In particolare, lui si è trovato spesso a dibattere sulle forme della lotta, e su questo, da quello che si legge, non si è trovato molto d'accordo, ecco, con molti compagni di percorso, che spendevano spesso tante parole e tante discussioni su come si lotta, cosa è giusto, in che modo è giusto farlo, quella lotta va bene perché è impostata così, quella no, invece no, eccetera. Pensiamo a quanto in questi anni siamo afflitti e saturati a fronte del decadimento dei contenuti politici del dibattito, dalla questione della violenza. No, se c'è la violenza è sbagliato, anche se la causa è giusta, no. Se invece non c'è, allora bene. Ecco, il dibattito sulle forme, lui lo liquida in due stoccate micidiali, secondo me, dice, cioè te lo devi permettere il dibattito sulle forme, cioè sei seduto tranquillamente, stai discutendo, stai facendo una situazione come questa, no? E allora dibatti sulle forme, ma c'è la maggior parte della gente, quella che si trova a lottare davvero nella merda, quella gente lì non ce l'ha questa possibilità, questo distacco, ecco. C'ha probabilmente solo un grande incazzo dentro e gli capita che esca a volte anche in malo modo. Ma tu che pretendi di solidarizzare con queste lotte? Te la devi togliere sta puzza sotto il naso. Non puoi pensare di giudicare le lotte da questo. Io ricordo, per esempio, mentre leggevo queste pagine mi venivano in mente anche degli fatti recenti. Mi ricordo qualche anno fa, nella mia regione, fuori Bologna, c'è un grande interporto tra Bologna e Ferrara, dove ci fu una lotta molto accesa dei lavoratori della logistica, dei facchini quasi tutti non bianchi, non cittadini italiani, e mi ricordo che ci furono scontri molto pesanti, ci fu anche un morto, ci scappò anche un morto in quel caso, non per gli scontri con la polizia, ma fu schiacciato da un camion. Anche in quel caso molte situazioni, alcune situazioni solidarizzarono, molte altre invece, appunto, con la puzza sotto il naso dissero no, ma questi sono brutti, sporchi e cattivi. Ricordo i dibattiti nella mia città, anche in ambienti non sospetti, tra virgolette, su quanto questi fossero brutti, sporchi e cattivi, cioè, ad esempio, pesantemente maschilisti, magari perché diciamo appartenenti appunto non solo a strati sociali molto molto bassi, non scolarizzati, ma perché magari anche di religione islamica, eccetera. Un sacco di distinguo, oltre a una sinistra liberale che ovviamente si affrettò a liquidare la violenza loro, non quella della polizia, e addirittura ci furono i senatori dell'Emilia Romagna del PD che fecero addirittura una petizione al governo perché mandasse più controllo militare sul territorio a seguito di questi eventi. Ecco, in quell'occasione sembrava quasi di essere strani a ribadire, cioè, chi era la parte debole nella faccenda, cioè in questa, al di là delle forme sulle quali si poteva essere d'accordo o non d'accordo, ma qual era la parte debole? Cioè, chi erano gli sfruttati e gli sfruttatori? Dov'era il conflitto capitale-lavoro? Cioè, non era difficile tirare una linea in quel caso. Non stavamo parlando, no, del precariato liquido, del general intellect, eccetera, eccetera. Facchini, menati dalla polizia, schiacciati dai camion, più di così, eppure appunto ti ritrovavi, ripeto, anche in persone da cui non te lo saresti aspettato, forse non te lo saresti aspettato qualche anno fa, ti ritrovavi a dover discutere di questo, anche un po' stupito, appunto. Ecco, Hunter ti racconta di queste cose qui, cioè ti racconta in realtà davvero di quello che ti capita quando ti muovi oggi in questo senso. E perché dico allo specchio? Perché tutti noi che abbiamo quello che lui chiama un capitale culturale, una definizione fantastica, fantastica, cioè lui dice non è solo una questione di appartenere o provenire da una classe sociale, certo c'è anche quello, poi la società britannica è pesantemente classista da sempre, più di quella continentale, però non è solo questo, che lui dice è chiaro che oggi nell'epoca post-fordista e della precarizzazione totale, no? Tu puoi anche avere studiato, ma avere le pezze al culo non è più come un tempo, no? Che c'era una riproduzione di classe molto rigida e garantita. Non è più così, d'accordo. Però se hai un capitale culturale da spendere, sei messo meglio di uno che non ce l'ha, a prescindere da quella che è la tua condizione socio-economica, diciamo. Quindi fa anche questa distinzione qui, che raramente ho sentito fare, e che a me mi ha colpito, ci sono rimasto, ho detto, in effetti, cioè, avere gli strumenti d'analisi, avere studiato e avere gli strumenti d'analisi, accidenti quanto ti aiuta, no? Rispetto a quello che non ce li ha. lui mette sul piatto anche questo, dice devi essere consapevole di avere questo, ricevuto questo privilegio, perché non è che, no? Hai ricevuto questo privilegio, hai potuto studiare, ok? Non avrai il lavoro, diciamo, che una volta sarebbe equivalso al tuo livello di studi, che saresti finito a fare, che diavolo ne so, l'avvocato in uno studio, no? Non sei lì, d'accordo, sei per strada a sbatterti come tutti, ok, però c'hai questa cosa in più rispetto a me, no? Che invece vengo veramente dai bassi fondi. Ancora una cosa però, lui è bravissimo a sbarazzarsi della prosopopea che potrebbe avere il reduce dei bassi fondi, cioè lui non ti parla appunto puntando il dito. Ho detto che ti mette allo specchio, tira su uno specchio, ma non dice, appunto, non fa del moralismo spicciolo, non ti dice, ah, io sì che ne ho passate tante, io sì che posso dirlo. Assolutamente no. Questo è molto apprezzabile nella sua scrittura, perché da questo punto di vista riesce a essere diretto, ma anche leggero. Pesanti le cose che racconta, è vero, anche perché poi te le racconta così. Cioè, non è che ti prepara, no? Cioè, ti racconta delle robe efferatissime, boom, in maniera estremamente secca, però appunto, ripeto, senza tirarsela, perché potrebbe aver acquisito questo tipo di prosopopea, no? Ho visto cose che voi umani middle class, no? Non potete neanche immaginare, no? E quindi devo dire che da questo punto di vista, quando ho letto questo libro, e giuro che mi aspettavo tutt'altro, perché ne avevamo parlato con Alberto, ma io mi aspettavo una cosa molto più biografica, molto più racconto, ecco, della sua vita, e mi aspettavo anch'io forse un po' una storia di scazzottate e fuori dal pub, sono rimasto veramente molto colpito. Sia appunto per questa riflessione politica, che io credo parli di quello che è successo alla sinistra tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, parla di non tanto della sconfitta, quella dell'epoca della Thatcher, ma del dopo, ecco, di come si è riorganizzata una compagine politica su delle idee fondamentalmente liberali, ecco, detta come va detta, e quindi ti riporta invece in campo la questione di classe, del conflitto capitale lavoro, di chi sta sopra e chi sta sotto, eccetera eccetera, ma soprattutto appunto te lo racconta in questo modo estremamente efficace, una riflessione, un aneddoto, una memoria, un adesso sono qui che sto facendo questa cosa, ok, ma non sto comodo, nemmeno qui io sto comodo, cioè la mia non è un'odissea che è finita. Anche perché questo che c'ha 40 anni e poco più, cioè è una persona appunto che ha già vissuto un paio di vite e ha in sé probabilmente due personalità, due storie, ma è ancora relativamente giovane, no? Quindi io non so costui adesso cosa vuole fare, cioè se continuerà a scrivere o se ha in mente di proseguire questa cosa, però devo dire che io ho sentito un grande beneficio da questo sguardo, ecco, che non è il mio ovviamente, io ho una storia diversa, no? Però mi sono accorto che guardava me, ecco, cioè che guardava noi, sempre quel noi tra virgolette di cui parlavo prima, e quindi credo che sia davvero salutare leggere un libro del genere. Vorrei dire quasi indispensabile, ecco, ma poi sembra precettistica sta cosa. Invece dirò salutare. A me ha fatto veramente, veramente bene. E torniamo in diretta su Radio Wombat, siamo già un minuto in ritardo, quindi ci affrettiamo a fare i saluti. Intanto verifichiamo, Edoardo, sei sempre con noi? Ci sei, ci senti? Vivo e vegeto, eccomi qua. Allora, io direi che è il momento dei saluti, stiamo per salutare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, dando l'appuntamento alla seconda domenica di dicembre, dove avremo ospiti Chiara Nobilia e Ludovica Lanini. Oggi abbiamo sentito le poesie di Vincenzo Mirra, Barbara Serdakovsky, Roberto Crinò, Manuel Triscari, tutti autori che hanno raccolto, le cui poesie sono state raccolte nell'antologia Congiunti, edita a luglio da Ensemble. Abbiamo sentito in anteprima la seconda parte di Dicerie degli Untori, o meglio Dicerie degli Untori completa della seconda parte, una nuova opera di Edoardo Olmi. Abbiamo sentito, erano le ultime due voci, Alberto Prunetti e Vooming 4, era un estratto dal Festival della Letteratura Sociale che abbiamo organizzato a settembre in Polveriera. Durante questo festival è stato presentato anche Chav di The Hunter, un libro tradotto in italiano da Alberto Prunetti e pubblicato da poco quest'anno da Alegre. Tutto questo si potrà riascoltare da stasera sul sito nuovo radiowombat.net, che sarà pienamente operativo da domani, ed è a quel sito che rimandiamo anche per l'ascolto delle prossime dirette da chi non fosse raggiunto dalla nostra frequenza M1359. Vado veloce avanti ricordando che adesso, subito dopo di noi, fino alle 19, le compagne e i compagni della Ciurma Pirata andranno in onda in diretta per fare un punto sulla situazione sanitaria. Che cos'è la Ciurma Pirata? Beh, non sto a dirvelo io adesso, ma vi rimando all'ascolto della scorsa puntata di Coccoli al Silicio. Nella prima parte si è parlato proprio di questo, il podcast come sempre sul sito. Non perdetevi, direi, anche questa sera La Fuga del Gatto in diretta, e poi a seguire la replica di Uru, ma tutto questo lo si può trovare come sempre sul palinsesto nel sito. Non mi resta che, prima di salutare Edo, ricordare che l'indirizzo per contattarci anche durante la settimana è postawombat@insiberia.net, e dire: Edo, è andata bene, un po' affannata, io un po' in imbarazzo, però era la ripartenza, vediamo di scioglierci un po' di più per la prossima, io almeno. Ma sì, dai, mi sembra che abbiamo fatto una buona ripartenza, con per adesso diciamo un dialogo a due, ma presto avremo dei nuovi ospiti e insomma penso che ci sarà un bel percorso da fare assieme nei prossimi mesi. E già a cominciare dalla prossima puntata ci sarai anche tu insieme a Chiara e Ludovica. Sì, ci sarò a presentare le due autrici che conosco personalmente entrambe. Chiaro, ci siamo conosciuti fra il Carver e il Nabokov, con Ludovica ci siamo conosciuti nel progetto delle Brigate Romane, quindi sono due libri, due autrici e due libri insomma che avrò molto piacere di presentare a dicembre insieme a voi. E allora l'appuntamento è ad allora per PoiuIt, grazie a Edoardo Olmi, grazie a chi ci ha ascoltato, buon proseguimento di domenica qui su Radio Wombat. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare.